Ad alta voce. Marco Foschi legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez. Traduzione di Enrico Cicogna. Il matrimonio fu sul punto di fallire dopo 2 mesi, perché Aureliano II, nel tentativo di rabbonire Petra Cotes, le fece fare un ritratto vestita da regina del Madagascar. Quando Fernanda lo seppe, rifece i suoi bauli di sposa novella e se ne andò da Macondo senza salutare nessuno. Aureliano II la raggiunse sulla strada della palude. Dopo molte suppliche e promesse di emendarsi, riuscì a riportarla a casa e abbandonò la concubina. Petra Cotes, cosciente della propria forza, non diede segni di preoccupazione. Lei lo aveva fatto uomo. Quando era ancora un bambino, lo aveva tolto dalla stanza di Melchiades, con la testa piena di idee fantastiche e senza alcun contatto con la realtà, e gli aveva dato un posto nel mondo. La natura lo aveva fatto riservato, schivo, con tendenze alla meditazione solitaria, e lei gli aveva forgiato un carattere opposto, vitale, espansivo, sbottonato, e gli aveva infuso l'allegrezza di vivere e il piacere della baldoria e dello sperpero, fino a trasformarlo, dentro e fuori, nell'uomo che aveva sognato per sé fin dall'adolescenza. Si era sposato, d'accordo, come prima o poi si sposano i figli. Lui non aveva osato anticiparle la notizia. Aveva assunto un atteggiamento così infantile di fronte alla situazione che fingeva falsi rancori e risentimenti immaginari, facendo in modo che fosse Petra Cotes a provocare la rottura. Un giorno in cui Aureliano II le rivolse un rimprovero ingiusto, lei schivò la trappola e mise le cose al loro posto. «La realtà, disse, è che vuoi sposarti con la regina». Aureliano II, rosso di vergogna, finse un accesso di collera. Si dichiarò incompreso, oltraggiato, e non tornò più a trovarla. Petra Cotes, senza perdere per un solo istante il suo magnifico dominio di belva in riposo, sentì la musica e i petardi delle nozze e il pazzesco frastuono della baraonda pubblica, come se tutto quello non fosse altro che una nuova birbonata di Aureliano II. Tranquillizzò con un sorriso coloro che si rammaricavano della sua sorte. «Non preoccupatevi», disse. «A me le regine mi lavano i piatti». A una vicina che le portò candele benedette perché le accendesse davanti al ritratto dell'amante perduto, disse con sicurezza enigmatica: «L'unica candela che lo farà venire è sempre accesa». Proprio come lei aveva previsto, Aureliano II tornò nella sua casa non appena passata la luna di miele. Portò i suoi amiconi di sempre, un fotografo ambulante e il vestito e la cappa di ermellino insaccherata di sangue che Fernanda aveva indossato durante il carnevale. Nella foga della baldoria che divampò quel pomeriggio, fece vestire da regina Petra Cotes. La incoronò sovrana assoluta e a vita del Madagascar, e distribuì copie del ritratto ai suoi amici. Lei non soltanto si prestò al gioco, ma provò anche un'intima compassione per lui, pensando che doveva essere molto spaventato quando aveva concepito quella stravagante trovata per la riconciliazione. Alle 7 di sera, ancora vestita da regina, lo accolse nel suo letto. Era sposato da 2 mesi appena, ma lei si rese subito conto che le cose non andavano bene nel letto nuziale e provò il delizioso piacere della vendetta consumata. 2 giorni dopo, però, quando lui non ebbe il coraggio di tornare, ma mandò un intermediario per fissare i termini della separazione, lei capì che avrebbe avuto bisogno di una pazienza maggiore di quanto prevedeva, perché lui sembrava disposto a sacrificarsi per le apparenze. Nemmeno allora si turbò. Tornò a facilitare le cose con una sottomissione che confermò la convinzione popolare che Petra Cotes era una povera donna, e l'unico ricordo che conservò di Aureliano II fu un paio di stivaletti di vernice che, a quanto lui stesso aveva detto, erano quelli che voleva portarsi nella bara. Li ripose avvolti, in stracci, in fondo a un baule, e si preparò ad alimentare un'attesa senza disperazione. «Prima o poi deve venire», si disse. fosse anche soltanto per mettersi questi stivaletti. Non dovette aspettare tanto come supponeva. In realtà, Aureliano II comprese fin dalla prima notte di nozze che sarebbe tornato da Petra Kotes molto prima di aver bisogno di infilarsi gli stivaletti di vernice. Fernanda era una donna persa per il mondo e del mondo. Fino alla pubertà non ebbe altra notizia che quella dei malinconici esercizi di piano eseguiti in qualche casa vicina da qualcuno che per anni e anni si permise l'arbitrio di non fare la siesta. Nella stanza di sua madre, malata, verde e gialla, sotto la polverosa luce delle vetrate, ascoltava le scale, metodiche, tenaci, scorate, e pensava che quella musica si trovava nel mondo, mentre lei si consumava intrecciando corone di palme funebri. Sua madre, sudando la febbre delle cinque, le parlava dello splendore del passato. Quando era ancora molto bambina, in una notte di luna, Fernanda aveva visto una bella donna vestita di bianco attraversare il giardino in direzione dell'oratorio. La sensazione che la turbò di più, scorgendo quella visione fugace, fu che la sentì esattamente uguale a sé, come se si fosse vista con 20 anni di anticipo. «È la tua bisnonna, la regina», le disse sua madre. «È morta di un colpo d'aria mentre stava tagliando un gambo di tuberosa. Molti anni dopo, quando cominciò a sentirsi uguale alla sua bisnonna, Fernanda mise in dubbio la visione dell'infanzia, ma la madre la rimproverò per la sua incredulità. «Siamo immensamente ricchi e potenti», le disse. «Un giorno sarai regina». Fino al giorno delle nozze sognò regni di leggenda. Nonostante suo padre, Don Fernando, fosse costretto a ipotecare la casa per comprarle il corredo. Non era né ingenuità né delirio di grandezza. L'avevano educata così. Da quando aveva avuto l'uso della ragione, si ricordava di aver fatto i suoi bisogni in un pitale d'oro, con lo stemma di famiglia. Uscì dalla casa per la prima volta a 12 anni. In una carrozza a cavalli che dovette percorrere soltanto 2 isolati per condurla nel convento. Le sue compagne di scuola si meravigliavano che la tenessero appartata su una sedia con lo schienale altissimo e che non si unisse a loro nemmeno durante la ricreazione. «Lei è diversa», spiegavano le monache. «Sarà regina». Le sue compagne lo credettero, perché già allora era la ragazza più bella, più distinta, più discreta che avessero mai visto. Fernanda non fece mai intima amicizia con nessuno. Non sentì mai parlare delle guerre che dissanguavano il paese. Non tralasciò mai di ascoltare gli esercizi di piano alle 3 del pomeriggio. Cominciava perfino a perdere l'illusione di poter essere regina, quando risuonarono 2 forti picchi perentori al portone e andò ad aprire a un militare ben portante, con modi cerimoniosi, che aveva una cicatrice sulla guancia e una medaglia d'oro sul petto. Si chiuse nello studio con suo padre, che 2 ore dopo andò a cercarla nella stanza del cucito. «Prepara le tue cose», le disse. «Dovrai fare un lungo viaggio». Fu così che la portarono a Macondo. In un solo giorno, con una zampata brutale, la vita le gettò addosso tutto il peso di una realtà che per anni le avevano sottratto i suoi genitori. Quando tornò a casa si chiuse nella stanza a piangere, indifferente alle suppliche e alle spiegazioni di Don Fernando, che cercava di cancellare la scottatura di quella burla inaudita. Si era ripromessa di non uscire più dalla stanza fino alla morte. Quando Aureliano II venne a cercarla, fu un colpo di fortuna inconcepibile, perché nello stordimento della indignazione nella furia della vergogna, lei gli aveva mentito perché mai conoscesse la sua vera identità. Le uniche reali piste di cui disponeva Aureliano II quando partì per cercarla erano il suo inconfondibile accento degli altipiani e il suo mestiere di intrecciatrice di palme funebri. La cercò accanitamente. Con la temerità atroce con la quale José Arcadio Buendía aveva attraversato la sierra per fondare Macondo, con l'orgoglio cieco con il quale il colonnello Aureliano Buendía aveva scatenato le sue guerre inutili, con la tenacia insensata con la quale Ursula aveva assicurato la sopravvivenza della stirpe, così Aureliano II cercò Fernanda, senza un solo attimo di scoramento. Per Aureliano II fu quasi contemporaneamente il principio e la fine della felicità. Fernanda aveva un elegante calendarietto con borchie dorate sul quale il suo direttore spirituale aveva segnato in inchiostro violetto le date di astinenza venerea. Scontando la settimana santa, le domeniche, le feste comandate, i primi venerdì, i ritiri, i sacrifici e gli impedimenti ciclici, il suo annuario utile rimaneva ridotto a 42 giorni dispersi in un intrico di croci violette. Aureliano II, convinto che il tempo avrebbe rimosso quello stile reticolato, prolungò la festa delle nozze più in là del termine previsto. Stanca di buttare nella spazzatura bottiglie vuote di brandy e di champagne perché non ingombrassero la casa e allo stesso tempo impensierita dal fatto che gli sposi novelli dormissero in ore diverse e in stanze separate mentre continuavano i petardi e la musica e il sacrificio dei capi di bestiame, Ursula rammentò la propria esperienza e si chiese se Fernanda non avesse anche lei una cintura di castità che prima o poi avrebbe provocato gli scherni della gente e dato origine a una tragedia. Ma Fernanda le confessò che stava semplicemente lasciando passare 2 settimane prima di accedere al primo contatto col suo sposo. Trascorso il termine, in effetti, aprì la porta della sua stanza con la stessa rassegnazione al sacrificio di una vittima espiatoria e Aureliano II vide la donna più bella della terra, coi suoi gloriosi occhi di animale spaventato e i lunghi capelli color rame sparsi sul guanciale. Era così affascinato da quella visione che tardò un attimo a rendersi conto che Fernanda si era infilata un camicione bianco, lungo fino alle caviglie, con maniche fino ai polsi e con un'asola grande e rotonda deliziosamente bordata all'altezza del ventre. Aureliano II non riuscì a reprimere uno scoppio di ilarità. «Questa è la cosa più oscena che ho visto in vita mia!» gridò con una sghignazzata che risuonò per tutta la casa. «Mi sono sposato con una suorina di carità!» Un mese dopo, non essendo riuscito a far sì che sua moglie si togliesse il camicione, se ne andò a fare il ritratto a Petracotes vestita da regina. Una notte, poco prima che nascesse il primo figlio, Fernanda si accorse che suo marito era tornato di nascosto nel letto di Petracotes. «È vero», ammise lui. E spiegò con un tono di avvilita rassegnazione: «Ho dovuto farlo, perché gli animali continuassero a partorire». Gli ci volle un po' di tempo per convincerla di quell'espediente peregrino, ma quando alla fine ci riuscì, mediante prove che sembravano irrefutabili, l'unica promessa che gli impose Fernanda fu quella di non lasciarsi sorprendere dalla morte nel letto della sua concubina. Così continuarono a vivere in 3 senza darsi fastidio. Aureliano II era puntuale e affettuoso con entrambe, Petra Cotes si pavoneggiava per il trionfo e Fernanda fingeva di ignorare la verità. Il patto non fece sì comunque che Fernanda riuscisse a integrarsi alla famiglia. Invano Ursula insistette perché buttasse via quella piccola gorgiera di lana con la quale si alzava dal letto quando aveva fatto l'amore e che provocava le chiacchiere dei vicini. Non riuscì a convincerla a servirsi del gabinetto o del vaso da notte e a vendere il pitale d'oro al colonnello Aureliano Buendia perché lo trasformasse in pesciolini. Amaranta si sentiva così imbarazzata dalla sua pronunzia leziosa e dalla sua abitudine di indicare ogni cosa con un eufemismo che davanti a lei parlava sempre in lingua furbesca. E fedi fi quel felefe, diceva, a fa cufui fi fa fa fa schifi fa fa la fa lo foro fo ste fessa fa me ferda fa. Un giorno, seccata per lo scherzo, Fernanda volle sapere che cosa stava dicendo Amaranta e lei non usò eufemismi per risponderle. Sto dicendo, disse, che sei di quelle che confondono il cazzo con l'equinozio. Da quel giorno non si rivolsero più la parola. Quando le circostanze le obbligavano, si mandavano messaggi o si parlavano per interposta persona. Nonostante la visibile ostilità della famiglia, Fernanda non rinunciò alla volontà di imporre gli usi dei suoi maggiori. Quando suo marito decise di dare al primo figlio il nome del bisnonno, lei non osò opporsi perché era arrivata da appena un anno. Ma quando nacque la prima figlia, espresse senza riserve la sua risoluzione di battezzarla Renata come sua madre. Ursula invece aveva deciso di chiamarla Remedios, dopo una tesa controversia nella quale Aureliano II si divertì a fare da mediatore, la battezzarono col nome di Renata Remedios, ma Fernanda continuò a chiamarla Renata e basta, mentre la famiglia di suo marito e tutto il villaggio la chiamavano Meme, diminutivo di Remedios. Poco dopo la nascita della bambina, si annunciò inaspettato il giubileo del colonnello Aureliano Buendia, ordinato dal governo per celebrare un nuovo anniversario del Trattato di Neerlandia. Fu una risoluzione così incoerente con la politica ufficiale che il colonnello se ne dichiarò violentemente contrario e respinse l'omaggio. «È la prima volta che sento la parola giubileo», diceva, «ma qualsiasi cosa voglia dire non può essere che una beffa». L'angusto laboratorio di oreficeria si riempì di emissari. La cosa che più lo indignò fu la notizia che lo stesso presidente della Repubblica pensava di presenziare alle cerimonie di Macondo per decorarlo dell'ordine del merito. Il colonnello Aureliano Buendia gli mandò a dire chiaro e tondo che attendeva con vera ansia quella tardiva ma meritata occasione per tirargli una pistolettata. Non tanto per fargli pagare gli arbitri e gli anacronismi del suo regime, quanto per aver mancato di rispetto a un vecchio che non faceva male a nessuno. Fu tale la veemenza con la quale pronunciò la minaccia che il presidente della Repubblica disdisse il viaggio all'ultima ora e mandò la decorazione tramite un rappresentante personale. Il colonnello Gerineldo Marquez, assediato da pressioni di ogni specie, lasciò il suo letto di paralitico per persuadere il suo vecchio compagno d'armi. «Troppo tardi mi convinco», gli disse, «che ti avrei reso un grande favore se ti avessi lasciato fucilare». Di modo che il giubileo si celebrò senza la presenza di nessuno dei membri della famiglia. Fu un caso che coincidesse con la settimana di Carnevale, ma nessuno riuscì a togliere dalla testa al colonnello Aureliano Buendia l'idea caparbia che anche quella coincidenza era stata prevista dal governo per calcare la crudeltà della burla. Dal laboratorio solitario sentì le musiche marziali, l'artiglieria a salve, le campane del Te Deum e qualche frase dei discorsi pronunciati davanti alla casa quando battezzarono la strada col suo nome. Gli occhi gli si inumidirono di indignazione, di rabbiosa impotenza. E per la prima volta dalla sconfitta si dolse di non avere l'audacia della gioventù per promuovere una guerra sanguinosa che cancellasse fin l'ultimo vestigio del governo conservatore. Non si erano estinti gli echi dell'omaggio quando Ursula bussò alla porta del laboratorio. «Non seccatemi!» disse lui. «Sono occupato!» «Apri!» insistette Ursula con voce quotidiana. «Questo non c'entra affatto con la festa!» Allora il colonnello Aureliano Buendía levò la sbarra e vide sulla porta 17 uomini dei più diversi aspetti, di tutti i tipi e colori, ma tutti con un fare solitario che sarebbe stato sufficiente per individuarli in qualsiasi angolo della terra. Erano suoi figli. Senza mettersi d'accordo, senza conoscersi tra loro, erano arrivati dai più nascosti angoli della costa, attirati dagli echi del giubileo. Tutti portavano orgogliosamente il nome di Aureliano e il cognome della loro madre. Durante i 3 giorni che rimasero in casa, con grande soddisfazione di Ursula e scandalo di Fernanda, causarono trambusti di guerra. Amaranta cercò tra antiche carte il libretto dove Ursula aveva annotato i nomi e le date di nascita e di battesimo di tutti e aggiunse, nello spazio che corrispondeva a cada uno, il domicilio attuale. Quella lista avrebbe permesso di fare una ricapitolazione di 20 anni di guerra. Vi si sarebbero potuti ricostruire gli itinerari notturni del colonnello. Dal giorno in cui se n'era andato da Macondo alla testa di 21 uomini verso una ribellione chimerica finché non era tornato per l'ultima volta nella coperta indurita di sangue. Il colonnello Aureliano Buendía, che sulle prime li aveva ricevuti con diffidenza e aveva messo perfino in dubbio la filiazione di qualcuno di loro, si divertì alle loro mattane e prima che se ne andassero regalò a ognuno un pesciolino d'oro. Aureliano II, che vide le illimitate prospettive di crapula che offriva quella fenomenale parentela, decise che tutti si fermassero a lavorare con lui. L'unico che accettò fu Aureliano Triste, un mulatto grande, con gli slanci e lo spirito esploratore del nonno, che aveva già tentato la fortuna in mezzo mondo e a cui non importava fermarsi in un posto o nell'altro. Gli altri, benché fossero ancora scapoli, non avevano dubbi sul loro destino. Erano tutti abili artigiani, uomini di casa, gente pacifica. Il mercoledì delle ceneri, prima che tornassero a disperdersi per la costa, Amaranta ottenne che indossassero gli abiti della festa e che l'accompagnassero in chiesa. Più divertiti che devoti, si lasciarono condurre fino alla balaustra, dove padre Antonio Isabel li segnò in fronte con la croce di cenere. Di ritorno a casa, quando il minore volle pulirsi la fronte, scoprì che il segno era indelebile e che lo era pure quello dei suoi fratelli. Provarono con acqua, sapone, con terra e strofinaccio e per ultimo con pietra pomice e lisciva e non riuscirono a cancellarsi la croce. Invece Amaranta e gli altri che erano andati a messa se la tolsero senza difficoltà. «Così va meglio», li congedò Ursula. «D'ora in poi nessuno potrà confondervi». Aureliano Triste, con la sua croce di cenere sulla fronte, fece sorgere alla periferia del villaggio la fabbrica di ghiaccio che José Arcadio Buendía aveva sognato nei suoi deliri di inventore.